747. Rosolio di cedro. Zucchero bianco fine in polvere grammi 800. Acqua piovana o pur di fonte litri 1. Spirito forte decilitri 8. Limoni di giardino alquanto verdognoli numero 3. Versate lo zucchero nell'acqua e agitatelo ogni giorno finché sia sciolto. Grattate in pari tempo la scorza dei limoni e tenetela infusa in 2 decilitri del detto spirito per 8 giorni. Per 3 o 4 giorni rimescolatela spesso ed inverno osservatela in luogo riparato dal freddo. Dopo 8 giorni passate l'infuso dei limoni da un pannolino bagnato, strizzatelo bene e l'estratto mescolatelo coi restanti 6 decilitri di spirito e lasciatelo riposare per 24 ore. Il giorno appresso mescolate ogni cosa insieme, versate il liquido in un fiasco che a quando andrete scuotendo e dopo 15 giorni passatelo per carta oppure più volte per cotone. Questo va messo in fondo all'imbuto e in mezzo adesso fateci passare uno stecco di scopa più rami nella parte superiore, onde di adito al liquido di passare.